in primo piano. Buongiorno a Salvatore Padula, caporedattore del Sole 24 Ore, e bentornato naturalmente. Bene, grazie e buongiorno a tutti. In grande evidenza oggi? Ma in grande evidenza oggi il decreto legge sulla manovra, che è stato approvato ieri alla Camera e che passerà nei prossimi giorni al Senato, con un po' di incognite sul destino definitivo del provvedimento, che poi vedremo magari in dettaglio. Ancora tantissime polemiche, tantissimi titoli di giornale sulle vicende legate alle risorse da destinare al Sud, e poi anche, devo dire, l'apertura di un nuovo fronte di polemica all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione su questa proposta della Lega di introdurre un esame, di sottoporre un esame di dialetto i professori. E allora ti ascolteremo volentieri. Ti lascio lavorare, Salvatore. Grazie. Devo dire che in realtà a unificare in qualche modo tutti i giornali stamattina ci sono queste grandi e bellissime foto dedicate ai mondiali di nuoto che sono, come sapete, in svolgimento a Roma per in qualche modo celebrare la vittoria di Alessia Filippi nei 1500 metri stile libero e il record del mondo di Federica Pellegrini sui 200 metri stile libero. Pellegrini che tra l'altro oggi gareggerà per la finale. Ad esempio, naturalmente, insomma, parto dalla Gazzetta dello Sport, che ha un titolo molto secco: Fantastiche, con due belle foto di Alessia Filippi che bacia la sua medaglia d'oro e una sorridente Federica Pellegrini. Poi all'interno, in pagina 2 e 3, le magnifiche rivali d'Italia, insomma un po' il tentativo o forse la provocazione di vedere un po' contrapposte queste due atlete che stanno dando grandi soddisfazioni all'Italia. Dicevo che tutti i giornali, veramente tutti i giornali, hanno queste belle foto in prima pagina, e gran parte dei giornali ha anche in prima pagina la notizia forse più importante della giornata, che è da un lato l'approvazione ieri del decreto legge anticrisi e dall'altro l'apertura degli scenari attesi sulla sua approvazione definitiva che è prevista per i prossimi giorni al Senato. A questo tema dedica per esempio l'apertura alla Stampa di Torino. Il titolo principale è: la legge anticrisi cambierà, le norme saranno approvate al Senato ma il governo si impegna a modificarle con un nuovo decreto. Ecco quindi, diciamo, il fronte di incertezza che si apre. Ieri le norme sono state approvate in Parlamento, ora è necessaria la seconda lettura da parte del Senato, ma il governo già annuncia che ci sono alcuni temi che tra un attimo vedremo, sui quali dovrà intervenire. Nel frattempo, diciamo, questa notizia della Stampa lega un po' il tema del decreto anticrisi a quello dei fondi per il Sud. Napolitano incontra Tremonti al Quirinale e ribadisce i suoi dubbi sull'approvazione di questo provvedimento. È il Sole 24 Ore che, aprendo sempre su questo argomento, scudo, ambiente e Corte dei Conti, cambia la manovra, che ci annuncia che cosa succederà nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni succederà che almeno su tre punti del decreto legge, che appunto sono le autorizzazioni ambientali sugli impianti energetici, la riformina, una piccola riforma della Corte dei Conti e la tassa dell'oro sull'oro di Banca Italia, sarà necessaria una correzione. E troviamo a pagina 3 del Sole 24 Ore il dettaglio di queste tre modifiche attese. In particolare, insomma, c'è stata molta polemica nei giorni scorsi sulla questione legata alle autorizzazioni ambientali sollevata dal ministro Prestigiacomo. La sostanza è che nella versione attuale del provvedimento non sarebbe attribuito al Ministero dell'Ambiente alcuna competenza sulle autorizzazioni per gli impianti energetici, inclusi quelli nucleari. Da qui quindi l'altolà del ministro Stefania, ma appunto questo articolo 4 del provvedimento, questo articolo sarà rivisto. È interessante certamente anche la questione che riguarda la Corte dei Conti. Qui il Sole 24 Ore rivela che insomma ci sarebbe stato anche un altolà da parte del presidente Napolitano. L'AS di Napolitano su Golden Tax e giudici contabili è il titolo di spalla a pagina 3. Diciamo la questione riguarda il fatto, lo leggiamo in una scheda sul Sole 24 Ore, la norma sulla Corte dei Conti restringe i confini in cui la Corte potrà verificare il danno erariale e decreta la nullità dei processi in corso davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti quando non rispondono ai nuovi requisiti necessari per far scattare la richiesta di rimborso per danno erariale. Appunto, anche in questo caso, visto che in qualche modo la norma va a incidere sul funzionamento di un organo costituzionale, il presidente ha chiesto insomma al Parlamento di intervenire e di modificare questa norma. Il Corriere della Sera pure dedica ovviamente una parte della sua titolazione di prima pagina a questo argomento, che poi è sviluppato nelle pagine interne. Tra l'altro il Corriere riepiloga anche le misure che questo decreto legge contiene, quindi dai consumi alle imprese in 25 articoli tutte le mosse antecrisi. Proviamo a vederle velocemente, rapidamente, a ricordarle insieme: lo scudo fiscale, quindi la possibilità di rimpatriare capitali o attività patrimoniali detenuti illegalmente all'estero pagando un'imposta sostitutiva pari al 5% del capitale, le norme sulle pensioni per le donne nel pubblico impiego, quindi dal 2015, anzi scusate, per le donne dal 2010 l'età pensionabile delle donne del pubblico impiego aumenterà di un anno ogni biennio per arrivare a 65 anni e quindi a regime nel 2018. Poi ci sarà se ne è parlato moltissimo, la detassazione degli utili dell'impresa. In realtà si tratta di una detassazione degli investimenti in alcune tipologie di macchinari. Ci sarà pure molto molto importante la sanatoria di colf e badanti irregolari, e ci sarà il mini condono sulle multe per la circolazione stradale contestate dai comuni fino al 31 dicembre 94, ma qui ricordiamolo solamente se i singoli comuni decideranno di appunto attuare, di applicare questa sanatoria. Dicevo che è strettamente legato al tema decreto c'è il tema del Sud. Anche in questo caso, diciamo, è ripreso praticamente da tutti i giornali, anzi alcuni giornali tendono a dare più evidenza a questa notizia, che certamente ha anche un impatto di tipo politico e delle possibili conseguenze di tipo politico assolutamente rilevanti per gli equilibri che in qualche modo potrebbe andare a modificare nella maggioranza. Leggo a pagina 6 del Corriere della Sera: Sud, vertice del governo, ma il ministro Tesoro che poi dice basta attacchi. Tremonti irritato con Miciche, ma Berlusconi fa da mediatore. Riepiloghiamo insieme al Corriere della Sera velocemente la vicenda. Diciamo, tutto nasce da questo Partito del Sud, che è un'entità che ancora insomma non esiste, ma potrebbe a breve esistere. Il governatore siciliano Raffaele Lombardo dell'MPA ha lanciato l'idea di un Partito del Sud, ha trovato l'appoggio del sottosegretario Miciche del PDL, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ma anche sponde nel Partito Democratico e tra altri esponenti PDL. Cos'è successo a seguire? Berlusconi nei giorni scorsi, il 26 luglio, ha annunciato un piano per il Sud da 21 miliardi entro il 2013, ma ricordiamo nei giorni scorsi, ci sono state molte polemiche sulla disponibilità effettiva di queste risorse che ora il governo si è impegnato a trovare. Tra i nodi portati alla ribalta da Lombardo c'è il nodo delle infrastrutture e quindi ritorna il dibattito, il confronto sul ponte, sullo stretto, sulla Salerno, sull'autostrada Reggio Calabria, che secondo Lombardo sarebbero lì a provare gli impegni disattesi del governo. A questo punto l'idea del Presidente del Consiglio, del Ministro Tremonti, è quella di utilizzare i fondi del FAS, il fondo delle aree sottoutilizzate. Tra l'altro, proprio oggi Berlusconi ha convocato la cabina di regia sul Mezzogiorno, quindi vedremo insomma che cosa succederà. Tra l'altro è interessante, proprio per le conseguenze politiche che pone, l'intervista che il Corriere della Sera ha fatto a Dell'Utri, a Marcello Dell'Utri, e chiede la giornalista Paola Di Caro: dunque il muro contro muro tra il Premier e il sottosegretario Micichè le sembra superato? Risponde Dell'Utri: mi sembra che tra i due i rapporti siano chiari e solidi, non c'è problema. Qualche problema però c'è stato se Micichè ha minacciato di fondare un suo partito. Micichè ha un po' esagerato nei toni, ma ha ragione quando dice che le promesse vanno bene, ma che poi bisogna vedere i fatti. Quindi diciamo che Dell'Utri tende un pochino a smorzare i toni, ma certamente non nasconde il fatto che qualche problema sia esistito. Stesso tema del Sud, naturalmente anche sul Sole 24 Ore, che forse ci regala qualche dettaglio in più su quello che potrebbe succedere. L'articolo è firmato da Carmine Fottina e la notizia è quella che si andrebbe verso l'idea di piani regionali per finanziare una serie abbastanza ampia di mini opere, di piccole opere pubbliche, quindi parliamo sempre di infrastrutture. Ovviamente con un approccio completamente diverso, diametralmente opposto, la Padania, che titola grande in prima pagina: soldi al Sud, valanga di no. I sondaggi parlano chiaro, oltre l'80% dei cittadini non vuole più pagare a fondo perduto per il Meridione. Il governo cerca un'intesa, convocato appunto, come abbiamo detto, per oggi un super vertice sul piano di Berlusconi. Bossi che rilancia fondi solo per progetti mirati. È poi La Stampa che ci regala a pagina 3 un bel confronto statistico, e che fotografa un pochino dal punto di vista numerico anche le tre Italie: l'Italia del Nord, l'Italia del Centro e l'Italia del Sud, e che poi nell'articolo ci ricorda come Berlusconi comunque su questo tema stia imponendo la tregua ai suoi alleati di governo. Anche il Riformista su questo argomento: la carica dei sudisti è il titolo principale. Scontro nel governo, il fronte del Mezzogiorno ottiene i finanziamenti e la retromarcia sul caso Prestigiacomo. Qui in questo caso ancora si uniscono i due aspetti: decreto anticrisi e, come abbiamo detto, problema del Sud. Manifesto pure dedica la sua grande foto consueta al... che è una foto molto che colpisce molto, di un bosco in fiamme, e il titolo è Mezzogiorno di fuoco, accompagnato da un editoriale di Valentino Parlato, che tende proprio a sottolineare come La questione delle risorse al sud, al di là, diciamo, delle questioni più tecnicamente e più squisitamente economiche, rappresenti in realtà una questione politica di equilibri all'interno della maggioranza assolutamente non sottovalutabile. Risorse per il Sud, il tema certamente si lega anche all'utilizzo che in questi mesi è stato fatto dei fondi FAS, perché la questione è appunto che quei fondi sono stati, scusate, ecco, dirottati ad altri interventi, per esempio a finanziare la cassa integrazione per la crisi, e diciamo in fondo proprio a questo tema dedica una bella pagina Il Sole 24 Ore, che fa il calcolo complessivo degli stanziamenti, delle misure anticrisi adottate da quando la crisi appunto è esplosa in tutta la sua violenza. Un argine contro la crisi da 65 miliardi in 3 anni, quindi secondo questo calcolo effettuato da Davide Colombo sul Sole 24 Ore, la crisi sarebbe finora costata alle casse dello Stato 65 miliardi di finanziamenti. Abbiamo avuto nella prima parte una lunga pagina economica dedicata al decreto legge sulla manovra e alla polemica sui fondi per il Sud, ma le polemiche nel governo, all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione continuano, e forse insomma sono destinate ad aumentare anche su un fronte nuovo che l'economia non riguarda. Mi riferisco alla proposta della Lega di sottoporre di introdurre un esame di lingua regionale, di dialetto in sostanza, per i professori. La notizia è su tutti i giornali, in posizione molto importante, moltissimi ci fanno l'apertura, molti ce l'hanno come titolo di taglio. È ad esempio tra i titoli principali nella giornata, che quindi nelle notizie di rassegna che Il Foglio di Giuliano Ferrara offre. Scontro Lega PDL, scusate, sui quiz ai docenti. Il partito leghista ha proposto di subordinare il trasferimento dei docenti al superamento di un test di lingua e di tradizioni regionali. Contrario anche il PDL, che ha sospeso l'esame della proposta di riforma, cioè una piccola riforma in discussione in Commissione Cultura alla Camera. Anche Repubblica, dialetto a scuola, scusate, bufera sulla Lega. Fini viola la Costituzione, nuova provocazione del Carroccio, che vuole introdurre l'esame di lingua regionale per i professori, no del PDL, si blocca la riforma. Leggiamo un commento dedicato a questo tema: il veleno nordista che divide l'Italia, scritto da Francesco Merlo. È curioso che nessuno dei meridionali che stanno al governo, dalla Russa alla Prestigiacomo, reagisca agli insulti leghisti. Intanto straparlare del Partito del Sud fra tanti caldi strafalcioni a favore dello sviluppo autogeno, non c'è infatti ministro parlamentare della maggioranza che osi rispondere alla tracotanza di questi loro colleghi padani. Molto duro il commento di Merlo. Il giornale pure, ora la Lega, scusate, vuole il test di dialetto ai prof. I professori dovranno superare un test dal quale emerga la loro conoscenza della storia, delle tradizioni e del dialetto della regione in cui intendono insegnare. Libero, Bossi abolisce l'italiano, ma in realtà Libero fa un'operazione diversa, cioè tende a sottolineare diciamo, e a unire, unificare tutti i fronti dissenso e di scontro, forse scontro è un po' eccessivo, aperti tra la Lega e le altre forze della maggioranza. Quindi, dopo le truppe in Afghanistan, la scuola. La Lega vuole un test di dialetto per i professori. È la risposta di Bossi al partito meridionalista, il governo in difficoltà. Il messaggero pure, la Lega test di dialetto ai prof, con un bel commento intitolato Senza senso, scritto da Paolo Pombeni, che vi leggo brevemente. Le esagerazioni in politica non pagano, è una vecchia regola che anche alla Lega dovrebbe tenere a mente. Va bene difendere i radicamenti sul territorio, va bene valorizzare le tradizioni culturali dei diversi luoghi, va bene considerare che anche nei dialetti italiani vi sono state tante ricchezze. Sostenere però che i professori per insegnare in un certo luogo devono conoscere il dialetto è una stupidaggine senza senso. Non serve neppure mettersi a discutere le ragioni più elementari e di buon senso. Però in effetti Paolo Pombeni poi le discute queste questioni e proviamo un pochino a vederle. Primo, i dialetti regionali non esistono. Non esiste il lombardo perché il bergamasco è diverso dal milanese, non esiste il laziale perché il ciociaro è diverso dal romanesco. Ci sono province dove i dialetti sono veramente un numero altissimo. Basterebbe fare il caso del Trentino, dove ogni vallata ha un suo dialetto, spesso anche piuttosto diverso da quello della valle confinante. Punto secondo, i dialetti vanno comunque scomparendo o fortemente annacquandosi. Sono più riflessioni particolari inflitte alla lingua italiana o storpiamenti della lingua televisiva comune che non vere e proprie lingue popolari come la loro ricchezza espressiva, come sono state in passato. Basterebbe ricordare che una parte non piccola delle parole che usiamo non è presente nei dialetti, come si dice per esempio in dialetto il termine cellulare. Questo è il commento del messaggero a questa proposta di Paolo Pombeni. Anche il Corriere della Sera interviene, anzi qui in questo caso è il titolo di apertura, esame di dialetto ai professori, la Lega fa scoppiare un altro caso, quindi anche qui sul Corriere. Diciamo, forse l'accento è posto più sulle conseguenze di tipo politico e di tenuta della maggioranza e sulle prospettive, insomma, che questo nuovo fronte di dissidio apre. E infatti a questo argomento è dedicato anche un commento scritto da Massimo Franco, il cui titolo è Un inizio di deriva, che vi leggo. Probabilmente non siamo alla vigilia della crisi del centrodestra, ma certo sta entrando in tensione un centrodestra, quello che riusciva a tenere insieme tutto. In apparenza sembra la metafora della coperta troppo corta o di un'Italia troppo lunga per accontentare ogni sua porzione, ma gli interessi sono sempre stati contrastanti. Bene, io concluderei qui la parte legata alle questioni del dialetto, ma passerei a segnalarvi alcune cose curiose che, o comunque che mi hanno incuriosito, che ho trovato sui giornali. Per esempio è molto interessante questa notizia che ho visto sul Corriere, ma che probabilmente anche altri giornali hanno. Via YouTube e Facebook scoppia il giallo dei ministeri oscurati. Quindi ieri pomeriggio verso le 5 i dipendenti di alcuni ministeri, tra cui la presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno provato a collegarsi a YouTube, a Facebook, ma anche a Twitter, a MySpace, e sono spariti. Allora subito è scoppiato o il putiferio, perché si è pensato che fosse stato il ministro Brunetta a bloccare l'accesso a questi siti. Come sapete, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, Brunetta ha emanato una direttiva con la quale disciplina e in qualche modo limita l'utilizzo di internet per motivi, diciamo, non di lavoro da parte dei dipendenti pubblici. Oppure, tra le altre cose che mi piace segnalare, certamente questa notizia sui bagagli persi: 10.000 bagagli persi ogni giorno per chi viaggia in aereo in tutto il mondo, che fanno più di 30 milioni di bagagli che spariscono ogni anno. Oppure ancora, sempre questa volta su Repubblica, una bella pagina sulle banconote false. Il titolo è "Ritornano i falsari, attenti all'invasione dei 20 euro taroccati". Banca Italia che dice che proprio i 20 euro sono, sono il biglietto più a rischio. E come fare per evitare di essere truffato? Beh, la cosa è semplice per chi può permetterselo: usare la carta di credito oppure il bancomat. Un'ultima cosa che segnalo qui, anche questo mi sembra un fronte molto interessante, una notizia che ho visto solo sull'Avvenire. C'è molta polemica su un nuovo canale televisivo che arriverebbe da parte di Sky, una TV dedicata ai bambini da 0 a 3 anni. Arriva la TV per neonati, critici, esperti e genitori. Sky lancia Baby, il canale per spettatori da 0 a 3 anni, con un'intervista alla Anna Oliverio Ferraris, psicologa, che ovviamente dice è dannosa, dobbiamo fermarla. Bene, io ho concluso la mia lettura dei giornali, ridò la parola a Irene.